Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Oggi ci immergiamo in un'opera narrativa, un racconto breve che ha una voce, diciamo, particolare. Sì, una voce che sussurra più che gridare, forse. Esatto. Esploreremo insieme L'ultima sigaretta sulla terrazza. È una storia scritta da Virginia Luneas, attenzione alla pronuncia Luneas, e pubblicata da Casa Luneas, anche qui Luneas, nel loro progetto Scritture senza tetto. Giusto, e fa parte di una collana specifica, Sottopelle. Il nome già dice molto, no? Eh sì, suggerisce proprio l'idea di storie che vanno in profondità, che toccano qualcosa sotto la superficie. Proprio così. Racconti che magari non fanno rumore, ma che ti restano dentro. Frammenti di vita, immagini che vibrano. E L'ultima sigaretta sulla terrazza sembra incarnare perfettamente questa filosofia. La trama di base è, apparentemente semplice. Cinque amici, una terrazza, una notte di vento. Ma è proprio lì la forza. L'ambientazione, l'atmosfera diventano quasi protagoniste. E i temi che emergono sono potenti. L'amicizia, l'addio, le verità non dette per troppo tempo. E anche una certa bellezza nelle conclusioni silenziose. Ok, cerchiamo di capire meglio questa storia. Da dove partiamo? Partiamo proprio dall'inizio. Dal capitolo 1, Il vento sopra la città. Quello che affascina subito è come Virginia Luneas usa l'ambientazione. La terrazza non è un semplice sfondo. No, affatto. Viene descritta come un rifugio, quasi sospeso. Esatto, una parentesi sospesa, addirittura un altare, un luogo rituale quasi. Il vento forte, le tende che sembrano vele, le luci della città che tremano. Tutto crea un'atmosfera di precarietà, ma anche di intimità quasi forzata. Sembra davvero un palcoscenico isolato dal mondo. E poi arrivano loro, i cinque amici. Marta è la prima, con vino e sigarette, elementi quasi... Già, poi Luca e Giulia, che arrivano insieme ma distanti. Una nota che già preannuncia qualcosa. E infine Andrea e Sara. E Marta accende la prima sigaretta. C'è quell'immagine forte del fumo che si mischia al vento, descritto come pensieri che non trovano pace. Prepara subito il terreno emotivo, no? Assolutamente. E c'è subito una tensione, un silenzio carico. Si sente il peso del passato, di quel famoso giuramento che si erano fatti di non perdersi. E Marta lo evoca, chiede. Vi ricordate quella sera di giugno? Ma poi aggiunge quella frase chiave. Questa notte è diversa, è come se tutto dovesse finire. Ma anche ricominciare. Questo mette subito sul tavolo la dualità della serata. È una fine, ma forse anche un inizio, o semplicemente una resa dei conti col passato. E si collega perfettamente al concetto sottopelle, no? Le emozioni sono lì, che ribollono appena sotto la superficie, anche nel silenzio. Proprio così. Non servono grandi eventi esterni. È tutto già lì, nell'aria, tra di loro. È l'attesa. E l'attesa non dura molto. Perché poi si passa al capitolo 2, Bicchieri e verità. Qui le cose iniziano a sciogliersi, diciamo. Il vino aiuta forse. Ma soprattutto quell'atmosfera da altare sembra quasi costringere alla confessione. Le verità iniziano a emergere. E sono verità pesanti. Si parte con Luca, che confessa un amore mai detto per una del gruppo risalente al 2006. Una lettera mai spedita. E quella sua frase, pensavo che ci sarebbe stato tempo, ma il tempo non aspetta nessuno. Universale. Tocca una corda scoperta per molti, credo. Sicuramente. Il rimpianto per l'occasione persa, la consapevolezza che il tempo scivola via. Ed è interessante come questa prima confessione apra quasi una diga emotiva. Non restano episodi isolati. No, infatti. Subito dopo arriva Giulia. E la sua è una rivelazione ancora più intima e dolorosa. Un aborto tenuto segreto per anni, anche al partner dell'epoca. Un peso enorme portato da sola. Enorme. E poi Andrea, con quella riflessione amara sull'invincibilità che credevano di avere da giovani. Pensavo che saremmo stati invincibili, ma il tempo ci ha smentiti. È il crollo delle illusioni giovanili di fronte alla realtà della vita adulta, delle sue difficoltà. E Sara pone la domanda che forse aleggiava. E se avessimo sbagliato tutto? La terrazza diventa davvero, come dici tu, un confessionale sotto le stelle. Sì, e queste confessioni emergono facilitate dall'ambiente, certo, ma anche dalla storia condivisa. Ci sono i ricordi evocati, la gita al mare, la notte in tenda, la corsa in motorino, che fanno da sfondo a queste rivelazioni attuali. Qui è dove diventa davvero interessante, però. C'è l'osservazione di Marta che dice: «A volte la verità arriva quando non serve più». Che ne pensi? Bella domanda. È un punto cruciale. Forse queste verità non hanno più uno scopo pratico. Non possono cambiare il passato. Giusto. Non si può tornare indietro. Però forse hanno un valore emotivo, catartico. Per chi parla può essere una liberazione. Per chi ascolta magari una comprensione tardiva, ma pur sempre una comprensione. Quindi magari non servono a risolvere, ma servono a chiudere un cerchio in qualche modo. O ad andare avanti con più consapevolezza. Potrebbe essere. Potrebbe servire a ridefinire il presente, a rendere l'addio, se di addio si tratta, più onesto, meno gravato da fantasmi. E questo ci porta al capitolo successivo. Le cose che non si dicono. Qui si scava ancora più a fondo nei silenzi. Sì, perché non sono finite le confessioni. C'è il silenzio di Andrea, che poi rivela di non essere riuscito a dire addio al padre, morto mentre lui era via. E quella frase: ogni volta che guardo il cielo, mi chiedo se mi ha perdonato. È un dolore così privato, così profondo. Devastante. Quel tipo di rimorso legato agli addii mancati è terribile. E poi c'è Sara. Il figlio non riconosciuto, visto solo da lontano. Un altro tipo di distanza, di non detto. E poi arriva Marta, che confessa l'amore mai dichiarato per Sara. Ti ho amata, ma non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. Wow! Quindi un intreccio di sentimenti e segreti che coinvolge tutti. Esatto. Fino a Giulia, che parla di un tradimento diverso, verso se stessa. Ho vissuto una vita che non era mia, per paura di essere sola. Anche questa è una confessione potente. Mamma mia! Un catalogo di dolori silenziosi che finalmente trovano voce in quella notte. E collega tutti questi segreti individuali al tema più grande delle relazioni che si incrinano, della difficoltà di comunicare davvero, anche tra amici che si conoscono da una vita. Allora, cosa significa tutto questo? Marta ha un'intuizione anche qui. Ci sono cose che non si dicono perché non si sa come, ma forse basta solo provarci. Ecco, forse è questo il punto. La terrazza diventa lo spazio dove questi silenzi pesantissimi possono finalmente essere condivisi. Non necessariamente risolti, ma condivisi. L'atto stesso di provarci ha un valore. Si ricollega a quello che dicevamo sulla verità che arriva troppo tardi. Magari non è mai troppo tardi per provare a condividere, anche se fa male. Esatto. È l'essenza del sottopelle. Portare alla luce queste correnti emotive, profonde, nascoste. E dopo tutte queste confessioni pesanti, si arriva a parlare del tempo che resta, nel capitolo 4. Sembra quasi un tentativo di guardare avanti, nonostante tutto. Sì, c'è un leggero cambio di tono, forse. Si parla del viaggio mai fatto di Giulia in Islanda, per vedere l'aurora boreale. Un sogno rimasto lì. E Luca dice quella frase un po' consolatoria, un po' amara. Abbiamo perso tempo, ma almeno lo abbiamo condiviso. È un modo per dare valore anche al tempo perso, se è stato vissuto insieme. Ma è Andrea a dire la frase chiave, secondo me. Il tempo che resta è quello che scegliamo di vivere. Che sposta l'accento dal rimpianto per il passato alla responsabilità per il futuro. Proprio così. È un passaggio verso l'accettazione e la presa di coscienza. E ci sono anche azioni concrete che nascono da questa consapevolezza. Tipo la decisione di Marta di andare a trovare sua madre dopo 3 anni di silenzio. Esatto. Un tentativo di usare quel tempo che resta per affrontare un'altra ferita, un'altra cosa non detta. E poi c'è quel sogno condiviso, magari un po' utopico, del locale da aprire insieme. Chiamato proprio il tempo che resta. Appunto. Anche se forse non si farà mai, simboleggia il desiderio di dare un senso nuovo al tempo futuro. Forti o forse fragili per via delle verità condivise. E c'è anche il biglietto lasciato da Giulia alla fine. Il tempo non si misura in ore, ma in verità condivise. Sembra quasi il messaggio riassuntivo della notte. Direi di sì. offre una chiave di lettura importante. Il valore di quella notte sta proprio nella verità emersa, per quanto dolorosa. Ha ridefinito il loro tempo insieme. Quindi la notte li costringe a fare i conti col passato, ma apre anche a una riflessione sul futuro, individuale e forse collettivo, seppur incerto. Esattamente. Collega la memoria condivisa ai percorsi individuali che forse prenderanno strade diverse. E arriviamo così al finale, al capitolo 5, l'ultima sigaretta. Qui tutti i nodi vengono al pettine, simbolicamente. Sì, Marta accende l'ultima sigaretta del pacchetto, ma il vento gliela spegne quasi subito. Un'immagine potentissima, netta. La fine. Simbolicamente perfetta. È l'ultimo atto di quel rituale condiviso, ma viene troncato, spento da una forza esterna. Il vento, il tempo, il destino, chi lo sa. Ma segna la fine di quella serata e forse di un'epoca per loro. E gli addii sono silenziosi. Nessuno dice ci vediamo presto. No, niente promesse vuote. C'è la consapevolezza che qualcosa è cambiato per sempre. Però Andrea fa un appello. Non dimenticate chi siamo stati qui. Una richiesta di preservare la memoria di quell'intensità, di quella connessione. È un riconoscimento maturo della fine di quel capitolo, senza negare il valore di ciò che c'è stato. Molto realistico. E la sigaretta spenta viene lasciata lì, sul tavolo, come un segno, un ricordo. Un memento fisico di quella notte. E l'immagine finale della terrazza vuota, testimone silenziosa, chiude il cerchio perfettamente. Ok, tiriamo le somme sull'impatto emotivo. È una storia decisamente malinconica, ma non solo, vero? No, non solo. C'è malinconia, certo, per l'amicizia che si evolve, per il peso delle verità, per la fine, silenziosa. Ma c'è anche, come dicevamo, una sorta di lucida accettazione, e la dedica stessa del racconto lo suggerisce. Qual era la dedica? A chi ha acceso l'ultima sigaretta sapendo che qualcosa stava finendo. Parla proprio di quella consapevolezza agrodolce. E tutto questo si inserisce bene nel progetto più ampio di Casa Luneas, Scritture senza tetto. Ne abbiamo accennato all'inizio. Sì, c'è una coerenza forte. Il sito www.casaluneas.it e la presentazione della collana Sottopelle parlano chiaro. Lo stile di Virginia Luneas, anche in altri racconti come Il mare che non si vede o Il tempo del padre, sembra proprio concentrarsi su questo. Paesaggi interiori, emozioni non dette, atmosfere cariche. Narrazioni intime, potere del non detto. Sembra essere proprio la sua cifra stilistica. Assolutamente. Un focus sui momenti di quieta rivelazione, sulle storie che risuonano, appunto, sotto pelle. Quindi, per ricapitolare, l'essenza de l'ultima sigaretta sulla terrazza, potremmo dire che è una storia sull'amicizia che cambia, sul tempo che passa e che a volte ci sfugge, sulla difficoltà e la necessità della verità e sugli addii silenziosi. Esatto. E sulla bellezza un po' struggente delle cose che finiscono senza fare troppo rumore. Proprio la frase che usano per descriverlo. Un racconto sull'amicizia, sull'addio e sulla bellezza delle cose che finiscono senza rumore. Calza a pennello. E mentre pensiamo a loro che se ne vanno da quella terrazza, magari resta una domanda aperta, un pensiero ulteriore. Ovvero? Ci siamo concentrati sulle persone, sulle loro emozioni, sui loro ricordi. Ma cosa succede a quei luoghi, come la terrazza, dopo? Quando le voci tacciono, le persone se ne vanno, questi luoghi continuano a raccontare la loro versione della storia. Conservano il peso emotivo di quello che hanno testimoniato. Bella domanda. Chissà se la terrazza trattiene ancora l'eco di quelle confessioni, di quell'ultima sigaretta spenta. Una riflessione affascinante che ci lascia con qualcosa su cui pensare. E con questo interrogativo sospeso concludiamo la nostra esplorazione di oggi. Abbiamo cercato di andare sotto pelle a L'ultima sigaretta sulla terrazza di Virginia Luneas, pubblicato da Casa Luneas. Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare, un luogo libero dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.